Questa è Visionari, le 14 in punto di giovedì 7 febbraio del 2013. 87.900, la modulazione di frequenza, e tutte le informazioni le trovate sulla scaletta di oggi, chiaramente sul sito internet della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, con gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 7 febbraio, le nostre indicazioni e suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda i film sul piccolo schermo, e poi gli altri appuntamenti della settimana in giro per l'Italia tra festival, rassegne e proiezioni, e poi il link che rimanda alla puntata precedente e anche all'archivio di quest'anno e dell'anno precedente. Diamo inizio alla carrellata di ospiti. Collegamento con Stefani di BDS Italia, che organizza la proiezione del documentario Roadmap to Apartheid al Cineteatro Volturno occupato qui a Roma, stazione Termini, l'8 febbraio, cioè domani. Intanto Stefani, benvenuta a Visionari su Onda Rossa. Grazie. Allora, partiamo da BDS. Cos'è questa associazione? È un movimento, sì. È un movimento che BDS sta per boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele. È un appello lanciato nel 2005 da parte della società civile palestinese, e dopo anni di dialogo, di negoziato, che non, vedendo solo peggiorare le cose, hanno fatto un appello alla società civile internazionale di fare queste campagne di boicottaggio nei confronti di Israele per mettere pressione, per cercare di importare un cambiamento. Allora, il documentario che proporrete domani alle 21, Roadmap to Apartheid, crea un parallelismo tra l'apartheid sudafricana e quello che sta generando la costruzione del muro di separazione tra Israele e Palestina, giusto? Sì, fa un confronto tra questi due sistemi di apartheid, dove non è solo il muro l'elemento comune, ma tante diverse cose, dall'uso delle prigioni, torture come mezzo di oppressione, la demolizione delle case, attacchi militari, i checkpoint, i sistemi di permessi, un controllo sulla popolazione, e quindi c'è questo confronto tra quello che è successo durante l'apartheid in Sudafrica e quello che succede oggi nei territori palestinesi occupati, anche interno di Israele. Mm-hmm. E infatti la campagna di boicottaggio prende spunto proprio della stessa campagna lanciata contro Sudafrica dell'apartheid. Sì. Quindi c'è anche il primo film che tocca, che esamina in un modo approfondito questi paralleli, sia tra quello che succede alla popolazione sotto occupazione, sia in Sudafrica che in Palestina e Israele, sia la mentalità dell'occupante, quindi il sentirsi vittima di questa idea del diritto divino a quella terra che appartiene a altri. Quindi ci sono tanti interessanti paralleli, e poi infine c'è questo parallelo tra quello che ha portato la fine dell'apartheid in Sudafrica, cioè la combinazione tra la lotta interna e la campagna internazionale di pressione sul governo sudafricano. Mm-hmm. La stessa cosa sta succedendo oggi con Israele. Mm-hmm. Stefani, due cose volevo chiederti: qualche informazione sugli autori e poi sul documentario, visto che questa a Roma domani al Volturno, al cinema teatro Volturno occupato, è in qualche modo un'anteprima italiana, ecco, dove è disponibile poi per chi volesse fruire? Ecco, sugli autori, loro infatti hanno usato la propria esperienza personale, perché sono due. Lei è Anna Noguera, che è una bianca sudafricana, sì, e lui è Aaron Davidson, un israelo ebreo, quindi hanno proprio usato la propria esperienza personale per portare avanti questo progetto, per questo film. Il loro obiettivo è la divulgazione, quindi hanno chiesto a gruppi di volontari in tutto il mondo di fare la traduzione per avere i sottotitoli in sono 14 diverse lingue sul DVD. Sì. Noi come BDS Italia abbiamo curato la versione italiana. Si può acquistare il film sul loro sito, che è roadmaptoapartheid.org, e tutte le lingue sono comprese sull'unico DVD. Bene, bene. Questa fa parte di una, è un'iniziativa che fa parte comunque di un progetto di iniziative un po' in tutta Italia, ma non solo, nel mondo, questo per quanto riguarda chiaramente BDS Italia. Per avere maggiori informazioni invece rispetto alla vostra attività, quali sono i riferimenti? Ecco, il nostro sito è bdsitalia.org, dove ci sono tutte le informazioni sulle campagne internazionali, quello che si fa in Italia, e anche il link a sito internazionale, quello del Comitato Nazionale Palestinese per il BDS è bdsmovement.net. Comunque tutti i riferimenti stanno sul nostro sito. E quindi questo film vuole anche fare un appello ad attivarsi in questo movimento BDS in tutto il mondo per portare un cambiamento in Medio Oriente. Bene. Allora, io ti ringrazio, ripetiamo l'appuntamento al Cineteatro Volturno Occupato qui a Roma, zona Stazione Termini, domani 8 febbraio alle ore 21. È prevista anche la presenza degli autori o comunque ci sarà un momento di dibattito? No, il film verrà presentato dal professore Wassim Dahmash, che è un professore dell'Università di Cagliari, e certo ci sarà un dibattito dopo. Benissimo. Allora, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie. Ciao Stefani. Ciao. Stefani di BDS Italia, il movimento che organizza la proiezione del documentario Roadmap to Apartheid. Allora, non era previsto in scaletta, però io ci avevo pensato, ho chiamato Mariangela Barbanente, che abbiamo adesso in collegamento telefonico, dell'associazione DocIt, che ha preso posizione rispetto alla decisione del Maxi di Roma di non programmare, di non proiettare un documentario in piena campagna elettorale. C'è stata anche in questo senso una mobilitazione di Articolo 21, che ha lanciato una petizione che ha raccolto, se non sbaglio, 50.000 firme, ma magari tu ne sai di più, Mariangela. Angela, intanto ben ritrovata, raccontaci un po' di questa triste vicenda. Ciao Federico, spero che il traffico non sia di disturbo, mi sono nascosta in una strada laterale di Via Cicerone, sperando che i clacson non disturbino la diretta. Ditemi se qualche cosa vi sfugge della mia voce. Si sente bene? Allora, sì, si sente bene. Allora, noi come associazione di categoria dei documentaristi italiani abbiamo preso subito posizione su questa vicenda, senza nemmeno consultarci con l'articolo 21, ma come dire, sarà san dir, cioè è una battaglia talmente importante quella della libertà di espressione nel nostro paese che ognuno cerca di combatterla con i mezzi che ha. Articolo 21 ha lanciato questa petizione, che però non ha sortito l'effetto voluto, perché il Maxi si è trincerato dietro un no senza appello, e noi come associazione dei documentaristi abbiamo sia diffuso un comunicato, che però in realtà diciamo sono solo parole, e poi ci siamo attivati per cercare uno spazio per questa proiezione. Il nostro impegno poi è stato scavalcato da un gruppo molto più importante, che è il gruppo L'Espresso, che ha dato il suo sostegno ai due registi, e noi siamo ben lieti che un gruppo editoriale come L'Espresso abbia preso a cuore questa vicenda, e quindi l'anteprima sarà organizzata da loro. Il nostro sostegno diventerà a questo punto solo morale. Ed è molto importante, secondo me, questo episodio, perché è un episodio eclatante di un problema che in Italia è molto diffuso. Adesso di questo se ne è parlato perché era un film che parlava di politica e siamo in campagna elettorale, perché uno degli autori è stato il direttore dell'Economist. Però quanti sono i documentari e i film in generale che vengono o boicottati o nemmeno realizzati, rimangono dei progetti perché non... perché sono scomodi. Se prendiamo un film come Improvvisamente l'inverno scorso, che ha avuto una grandissima risonanza, un documentario, perché parlava di Vico, e ha avuto una grandissima risonanza perché ha avuto questo exploit folgorante al Festival di Berlino, e quindi anche in Italia ha cominciato a circolare nei cineclub e nelle sale più attente al cinema d'essè. Però fino a quel momento non solo nessun festival italiano l'aveva preso in considerazione, se non i festival di settore come quelli sul cinema gay, ma nessuna TV l'ha mai mandato in onda in Italia, né prima né dopo il successo che ha avuto nella circolazione militante. Sì, perché? Sì. Perché era un film scomodo e Gustav Hofer e Luca Ragazzi se lo sono prodotti da soli. Sì, sì, sì. Ma anche altri progetti non riescono a vedere la luce perché non c'è l'interesse delle istituzioni. E allora per questo diciamo che il film di Annalisa Piras e Bill Emmott diventa simbolico per tutta una battaglia. Cioè, l'associazione Dokit non difende il film in quanto tale, il film, certo, noi non l'abbiamo visto, certo, e non ne facciamo una questione di valore o di gusto, ne facciamo proprio una questione politica. Allora, intanto tu citavi il caso di due documentaristi che noi chiaramente abbiamo ospitato, facevi un caso che insomma per certi versi ricorda l'ostracismo verso alcune opere d'arte, noi chiaramente le ospitiamo sempre volentieri. In questo caso hai detto di Annalisa Piras, che è una giornalista italiana che vive a Londra, e Bill Emmott, che è l'ex direttore dell'Economist, e Girlfriend in a Coma, che è il titolo del documentario, non l'abbiamo visto, però magari dacci, per chi, soprattutto per chi ci ascolta, delle indicazioni di trama. Allora, credo sia tratto da un saggio scritto da Bill Emmott e racconta lo sfacelo dell'Italia negli ultimi 20 anni, il fatto che questo paese è in coma e che diciamo non è ancora morto, ma se non ci sbrighiamo a risvegliarlo il passo è breve, questo secondo lui, però diciamo che insomma forse è una considerazione che possiamo condividere in tanti, e cerca di guardare il problema da tutti i punti di vista, sia analizzando le colpe, le responsabilità, chiamiamole così, responsabilità è meglio, della sinistra che della destra. Naturalmente è un film che è stato fatto un anno fa, la lavorazione di film è iniziata un anno fa, per cui una cosa che si evince dal documentario è una fiducia in Mario Monti che insomma, diciamo, non è esattamente una fiducia in cui adesso ci riconosciamo in tanti, anche considerando la sua discesa in campo di uno che è stato messo a capo del governo come tecnico, invece poi si è lanciato nell'agone politico. Però insomma diciamo che una cosa che Bill Emmott ha scritto nei suoi comunicati è che la loro non è una verità assoluta, il loro film è un punto di vista e come tale può anche essere messo in discussione, deve essere messo in discussione, ed è quello che la produzione di un film permette di fare, ascoltare un punto di vista e contraddirlo, discuterne, dire non mi piace, non lo condivido e a seguire. E secondo me la cosa più grave di tutta questa vicenda è che il film è stato censurato non per le sue idee, ma semplicemente per l'argomento di cui parlava. Sì. Cioè già censurare una cosa per le proprie idee è sbagliato, però io posso capire se arriva il segretario di un partito e vuole mostrare in un luogo istituzionale come un museo un filmato promozionale del suo partito. E allora a quel punto la direttrice di un museo, di una fondazione, ha tutto il diritto di dire siamo in campagna elettorale, non si può. Ma questo è un film, è un'opera, certo, fatta oltretutto da una produzione straniera. Certo. E quindi aveva tutta la dignità di essere proiettata. Teniamo presente che quella proiezione al Maxi era una proiezione praticamente privata ad inviti, e quindi se c'è una cosa positiva che l'autogol della Melandri ci ha permesso di evidenziare e che proprio grazie a questo suo no di questo problema si è cominciato a parlarne in maniera molto sentita da parte di tanti. Noi come Dokit avevamo iniziato a ragionare su una cosa che ci era saltato agli occhi guardando la quantità di film prodotti in giro per l'Europa. I paesi che producono più documentari sono quelli con una democrazia più stabile, un senso della democrazia più difeso dalle istituzioni. Diciamo che si producono molti più documentari in Svezia e in Danimarca che in Italia, in Spagna o in Grecia o in Turchia, per esempio, se vogliamo allargarci al di fuori della comunità europea. E quindi ci interessava, proprio come associazione, portare avanti, e penso lo faremo, questo studio sul fatto che in realtà fare documentari in un paese significa avere la possibilità di confrontare più idee. Sì. E quando un paese non permette ai suoi registi di fare documentari è perché non vuole essere messo in discussione. Tra l'altro, Mariangela, questa posizione presa dal Maxi non fa che avvalorare la tesi del film sul declino di questo paese degli ultimi 20 anni, proprio a partire dal piano culturale. Esattamente. No, se vogliamo adesso allargare le citazioni, mi sembra che il Corriere della Sera, un altro giornale di questi molto importanti e molto diffusi, ha fatto un'analisi su quante volte la parola cultura ritorna nei comunicati ANSA dei partiti politici. Mi sembra che sia sotto la decina, su una quantità di 2500 parole, insomma, di concetti espressi, di temi espressi. Bene, questo è piuttosto indicativo. Certo. Mariangela, io ti ringrazio. Se ci saranno poi novità rispetto a Doc It e a qualche iniziativa rispetto non solo a questo documentario Girlfriend in a Coma, ma anche altre vicende, chiaramente i microfoni sono a disposizione. Beh, allora ne approfitto velocemente per dirti che venerdì sera alla Casa del Cinema si chiude il mese del documentario con la premiazione. Bene. A seguire ci sarà una festa, ma in un altro locale, per cui se venite alla premiazione saprete dove è la festa. E il 16 mattina, sempre alla Casa del Cinema, c'è la nostra assemblea annuale, dove si discuterà e si racconterà quello che l'associazione fa per questo genere. Bene, allora, dati questi ultimi due appuntamenti che hai lanciato, dacci anche come riferimento il vostro sito internet. www.documentaristi.it. Benissimo, un abbraccio e a presto, Mariangela. Grazie, ciao. Ciao. Mariangela Barbanente, presidente dell'associazione Doc It. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info, la frequenza è 87.900 di Radio Onda Rossa, però potete anche ascoltarci in streaming dai vostri computer se siete connessi. Trovate la possibilità sul sito internet della radio www.ondarossa.info, sulla home page c'è l'opzione ascolta la diretta. Seguiamo con i nostri collegamenti. In collegamento con l'architetto Claudia Tombini, proprio in merito all'appello lanciato dagli architetti per salvare il cinema America, che da poco tempo è occupato. Questo perché il Cinema America è opera dell'architetto Angelo Di Castro, realizzato alla metà degli anni 50. Intanto benvenuta a Visionari su Onda Rossa, Claudia. Grazie, grazie. Allora, dici un po' di questa presa di posizione. Allora, guarda, in realtà niente, i ragazzi, questo collettivo studentesco di studenti universitari e media ha occupato il cinema a novembre. Sì. E andando così a vedere, a curiosare, abbiamo visto questo cinema bellissimo, ci siamo resi subito conto che doveva essere stato fatto di sicuro da qualcuno abbastanza noto, importante, perché è veramente uno spazio molto bello, e andando a guardare abbiamo visto che appunto è di Angelo Di Castro. Angelo Di Castro è un architetto romano riconosciuto e di conseguenza abbiamo pensato di aiutare un po' il Cinema America occupato a organizzare una mostra, innanzitutto una mostra sulla storia del cinema e del cinema America, insomma, di tutto quello che ha rappresentato, ma non solo come architettura, un po' riguardando tutti gli aspetti, cioè della memoria collettiva che poi il cinema rappresenta, in quanto ovviamente ci passano più personaggi, diverse figure, e non è solo l'architettura. E in quell'occasione abbiamo invitato a partecipare a un dibattito proprio sul cinema America di Di Castro, abbiamo invitato la professoressa Alessandra Montoni, Giorgio Muratore, il professor Muratore e Paolo Berdini, che è un urbanista, insieme a Maria Rita Intrieri e alla Sforza Cesarini, che è l'artista che aveva fatto dei mosaici all'interno del cinema insieme a Leoncillo. Mm-hmm. È stato un dibattito molto proficuo, ha partecipato tantissima gente, una bella occasione, e da lì abbiamo preso questa decisione di fare un appello per il cinema, perché c'è un progetto che sta per essere approvato di demolizione per farci poi 20 mini appartamenti e 2 piani di parcheggio. Mm-hmm. E ecco, insomma, un po' il discorso principale è questo dell'architettura dal nostro punto di vista di architetti, però diciamo l'appello poi è firmato insieme anche a persone dello spettacolo, fotografi, non è solo un appello di architetti in realtà, perché poi hanno partecipato come promotori sia Elio Germano che Enrico Ghezzi, e anche tutto il gruppo di Boris ha firmato come promotore, e poi ci sta un fotografo, insomma abbiamo unito un po' le forze. Oh, questo questo che ci dici mi fa venire in mente un paio di elementi che comunque rendono questa vicenda, ma non solo, pane per i denti proprio degli architetti, perché per esempio l'assemblea dei giovani del centro che ha sostenuto, promosso e sostenuto questa occupazione, ha realizzato anche tutta una ricerca sui luoghi abbandonati che puntellano, cioè che sono sparsi in vari punti della città, anche e soprattutto al centro. E un'altra, sempre in merito a questa cosa, ricordo che anni fa il movimento per il diritto all'abitare di questa città fece una ricerca dalla quale risultò, questo fino a qualche anno fa, ma credo che la situazione sostanzialmente sia rimasta la stessa, nella nostra città, a Roma, c'è contenuta un'area ampia quanto la città di Bologna, disabitata e inutilizzata. Sì. E questo già è un discorso. E l'altro discorso è che recentemente, sulla base anche dell'esperienza, per esempio, del Teatro Valle occupato, che comunque ha contribuito anche a questa esperienza del Cinema America, in tutta Italia si sono moltiplicate esperienze di cinema e di teatri, e qui torna anche il discorso sia sull'architettura che sulla cultura, in stato di abbandono, spesso, come è il caso del Valle, il più antico teatro della capitale del Settecento, insomma. Certo, no, ma infatti l'appello, diciamo, che oltre ad abbracciare la questione proprio architettonica di valore dell'architettura, che spesso comunque purtroppo viene dimenticata in Italia, sì, senso che poi da noi paradossalmente siamo il paese con il tasso più alto di architetti al mondo, siamo uno su 480 abitanti rispetto a una media mondiale di uno su 3.000. Per dirci, sì. Eppure l'architettura viene completamente sottovalutata e maltrattata, quindi un po' diciamo è stato un pretesto, però poi quello su cui ci siamo concentrati è anche tutto questo discorso anche della sostenibilità e del riuso degli spazi, cioè in una città che si continua a costruire e addirittura a demolire delle architetture validissime ancora per costruire appartamenti laddove ce ne sono 250.000 vuoti e più di 50.000 invenduti, insomma ci sembra quanto mai assurdo. L'altra questione molto importante è il discorso comunque sulla cultura e sul cinema, perché ovviamente non è che il Cinema America è il primo spazio occupato, è il primo cinema che rischia la demolizione, tanti altri sono stati demoliti, sono stati riutilizzati per sale bingue, quindi è solo l'ennesimo caso. Però quello che a noi fa molta specie è che comunque laddove la cultura poi viene autogestita da collettivi che occupano questi spazi si fa il pienone, perché l'altra sera quando hanno proiettato Boris la sala 750 posti era completamente piena. E questo quindi non è da sottovalutare la capacità di queste architetture ancora di svolgere il loro ruolo di architettura, di cinema, di spazio che accoglie appunto in massa comunque, non il singolo, diciamo. Claudia, per saperne di più sulla vostra iniziativa, sul vostro appello di architetti, ci dai dei riferimenti? Allora, guarda, la petizione sta su change.org, che è un sito proprio delle petizioni. Se si vuole trovare, forse il modo per trovare più facilmente il link è andare sul sito del Cinema America Occupato, che è americaoccupato.org. Benissimo. Allora, trovate il link. Aspettiamo prossime novità. Va bene, ok. Grazie. Un abbraccio, ciao Claudia. Ciao, ciao. L'architetto Claudia Tombini sull'appello per salvare il Cinema America. Questo è Visionari su Onda Rossa, ogni giovedì dalle 14 alle 15. E proprio a proposito, questa settimana, questa puntata sarà seguita dallo spazio che stiamo riservando al Teatro Valle Occupato. E troviamo nuovamente Giovanni Fasanella, co-regista del documentario SB, Io lo conoscevo bene, che è uscito in sala il 5 febbraio, quindi martedì. Lo avevamo... Intanto Giovanni, ben ritrovato a Visionari su Onda Rossa. Grazie, grazie a voi dell'invito. Ci eravamo sentiti dopo il Festival del Cinema di Roma, dove il vostro documentario era stato presentato, e adesso ne riparliamo perché è uscito in sala, tra l'altro in un nel pieno della campagna elettorale, il che mi sembra un aspetto piuttosto interessante. Del tutto casuale. È una coincidenza soltanto, non è, certo, una scelta. Allora, anche perché, diciamo, se da un lato ci ha avvantaggiati, nel senso che ha riacceso l'interesse sul personaggio e quindi sul film, dall'altro ci ha creato un danno perché per la distribuzione nelle sale, perché molti, questo non è un paese di grandi coraggiosi, e molti esercenti hanno avuto paura e quindi non l'hanno preso. Mi era piaciuta però la tua dichiarazione rispetto alle polemiche, ho letta sul giornale l'altro giorno, nel senso, chi si aspettava una nuova discesa in campo dopo il ritiro dalla politica, quindi appunto anche questo elemento appena qualche settimana fa sembrava ormai moribondo e adesso invece è piuttosto pimpante. Allora, SB è una sigla punteggiata che richiama al nome e cognome dell'ex primo ministro. Racconta un po' a chi ci ascolta nuovamente come si sviluppa il documentario, intanto come è impostato e come si è sviluppato. Ma la storia di Silvio Berlusconi, la sua ascesa come imprenditore mediatico e poi la sua discesa nel campo della politica e poi il suo tonfo nell'abisso come leader politico e premier, e quindi come capo di governo. Certo, bisognerebbe aggiungere un capitolo finale sulla ridiscesa nella politica, che è storia di questi giorni, ma questo sarà un problema del dopo. E questa storia di Berlusconi viene raccontata da un punto di vista molto particolare e da un punto di vista direi anche inedito, perché noi abbiamo conosciuto il Berlusconi che ci hanno consegnato le cronache giudiziarie, abbiamo conosciuto il Berlusconi raccontato anche in modo duro dai suoi avversari mediatici o dai suoi avversari politici. Ecco, ma non avevamo mai conosciuto il Berlusconi raccontati dai suoi stessi amici, quegli amici che avevano creduto in lui, che lo avevano appoggiato, che lo avevano votato, che lo avevano portato alla vittoria e al governo, e che poi però sono rimasti terribilmente delusi dal Berlusconi leader politico e capo di governo, perché di tutto le cose che aveva promesso non ne ha realizzata una. Ecco, questo non lo dico io, lo dicono i suoi stessi amici. E in più, diciamo, ha quindi fallimento completo, totale come uomo di governo, e come leader di partito un disastro, perché i suoi stessi amici lo accusano di non essere stato capace, di non aver mai voluto costruire un partito con al proprio interno una vera e propria vita democratica, ma ha costruito un partito a immagine e somiglianza della sua persona e dei suoi interessi, ed ha selezionato anche la classe dirigente, i gruppi dirigenti del partito e di governo quando ne ha avuto la possibilità, sempre in base esclusivamente a un criterio non meritocratico, ma nemmeno di affidabilità politica, ma di affidabilità personale in relazione ai propri interessi. Ecco, in questo senso mi sembra proprio che la sia stato una delle degli elementi cruciali di questo ultimo ventennio di personalizzazione della politica, l'esperienza berlusconiana. Sì, indubbiamente io la considero una degenerazione, questa personalizzazione della politica, perché diciamo, alla focalizzazione intorno al leader non ha corrisposto la nascita di un sistema politico maturo e di partiti politici maturi e democratici. A noi abbiamo avuto una politica che era fatta in questo ventennio, spero che con queste elezioni si cominci finalmente a voltare pagina, che era fatta di uomini leader e poi intorno allora il nulla, sì. Soltanto dei comitati d'affari, nella peggiore delle ipotesi, o dei comitati elettorali nella migliore, insomma. Ecco, un tentativo di scimmiottamento della politica americana con l'idea non reale, perché se qualcuno di questi fosse stato in America a studiare quel sistema politico si sarebbe reso conto che in realtà la politica americana è una cosa molto, ma molto più seria di quello che abbiamo visto in questo ventennio in Italia. Cioè, lì c'è il leader politico vero, carismatico, vero, ma dietro anche un partito. In America non è sufficiente farsi bene il nodo della cravatta per piacere all'opinione pubblica. Certo, sono anche dettagli che possono avere il loro peso, ma l'elettore americano è in grado di capire se sotto la camicia ben stirata di un leader c'è qualcosa o non c'è niente. Ecco, noi abbiamo avuto un tentativo di trasferire in Italia, scimmiottandolo, un sistema politico come quello americano, e con i disastri, diciamo, che abbiamo tutti sotto gli occhi. Giovanni, nella precedente nostra chiacchierata mi dicevi che avevate avuto una quindicina di interlocutori che si muovono in più campi professionali, e chiaramente anche adesso ci dici delusi da questa speranza, probabilmente, che l'avventura di Forza Italia sul nascere poteva generare. Però la cosa che non mi convince, per esempio, è che di queste persone fanno parte anche politici navigati che avevano un'esperienza anche precedente a quella della e quindi non la vedo molto ingenua come posizione, tale da rimanere di provocare poi una delusione, ma probabilmente non ha corrisposto poi lo sviluppo delle cose alla propria visione, ai propri interessi, probabilmente. Ma guarda, alcuni dei personaggi che abbiamo invitati, come giustamente rilevi tu, è gente che aveva una precedente esperienza politica, alcuni erano addirittura anche stati dei protagonisti della tanto vituperata prima Repubblica, sì. Quindi perché poi a un certo punto hanno scelto Berlusconi? La risposta vale anche per gli altri, cioè per gli altri personaggi del film che invece si sono affacciati per la prima volta alla politica nel 94, quando è apparso Berlusconi, e forse loro sì, un po' ingenuamente, si sono illusi che Berlusconi potesse cambiare le cose. E quindi allora perché gli uni e gli altri hanno scelto Berlusconi nel 94 e poi anche dopo? Perché lo hanno in qualche modo considerato il male peggiore. Ecco, questa è una riflessione che dovrebbe fare anche la sinistra, che insomma non ha fatto i conti pienamente con la propria storia, con la storia di questo paese. Vabbè, però lì Giovanni c'è anche la questione del conflitto di interessi risolto, ma anche poi della... Vorrei spiegarmi meglio, cioè la sinistra in Italia, la sinistra comunista, non si è resa conto quanto forte fosse la percezione nella maggioranza dell'opinione pubblica italiana del pericolo comunista vero o presunto o falso che fosse. Quello che contava nella Guerra Fredda era la percezione, certo, che gli italiani avevano di quel pericolo, e questa percezione era profondamente radicata, per cui quando... Ed è un cavallo sul quale poi Berlusconi ha cavalcato molto, insomma. Esattamente, quindi quando è caduto il muro di Berlino, è finita quella fase, quella storia, la sinistra postcomunista si era illuso che fosse sufficiente cambiare nome e simbolo al partito per esorcizzare quella paura, per sradicare quella percezione di pericolo che era ancora molto radicata nell'opinione pubblica. Per questo è quando è saltato fuori un imbonitore come Berlusconi, che ha cavalcato ossessivamente quel tema dell'anticomunismo e della paura del comunismo, raccogliendo intorno a sé un larghissimo consenso. Poi, per fortuna, devo dire, siccome dall'altra parte c'è anche tantissima gente per bene, non è che sono tutti delinquenti come vorrebbero dipingerli alcuni, ma c'è tanta gente per bene semplicemente che la pensa in un altro modo, e questa gente per bene ha aperto gli occhi e si è resa conto che insomma un personaggio come Berlusconi è davvero un'anomalia nel panorama politico non solo italiano ma europeo e mondiale, e quindi lo ha abbandonato. Giovanni, da martedì nelle sale ti chiedo intanto che tipo di diffusione avrà, e poi quali sono stati i primi risultati, cioè le prime risposte di pubblico. Allora a Roma, parlo di Roma naturalmente, perché no, insomma il film esce anche in altre, è uscito già anche in altre città italiane. A Roma attualmente è al Politecnico Fandango, e la risposta di pubblico è stata molto molto buona, tant'è che rimarrà in sala lì al Fandango fino a martedì 12 febbraio. Poi si sposterà al Chino dal 19 al 23 febbraio. Certo, come dicevo all'inizio di questa nostra chiacchierata, il clima elettorale, l'incertezza sul risultato di Berlusconi, e se vince e se dovesse vincere, questa è una domanda che pesa sulle scelte di tanti esercenti, per cui la grande distribuzione che ha visto il film e a cui è piaciuto anche tantissimo, però non l'ha preso proprio per questo timore. Quindi stiamo pensando, il cinema sta passando nel circuito indipendente, per fortuna, ecco, di questo paese esiste ogni tanto anche qualche isola di anticonformismo e di libertà dove possono circolare prodotti liberi come questo film. Bene, allora Giovanni, un abbraccio e a risentirci per le prossime novità. Grazie tante a voi e buon lavoro. Grazie, ciao. Ciao. Giovanni Fasanella, co-regista del documentario SB, io lo conoscevo bene, è uscito il 5 febbraio scorso. E ritroviamo Maura Del Pero, intanto ben ritrovata, cara. Grazie, grazie, ciao Federico. Ci sentiamo ultimamente abbastanza di frequente. Sì, molto spesso. Perché comunque ci eravamo sentiti l'ultima volta, ancora l'anno scorso, per il tuo documentario Nadea e Sveta, che però adesso esce nelle sale, soprattutto quelle legate alla Cineteca di Bologna, e sarà per esempio al Cinema Lumière a Bologna dal 7 al 13 febbraio, comunque esce lì, insomma. E si spera poi anche altrove. Allora, chiaramente, di nuovo, per chi ci ascolta, di cosa parla questo lavoro? Ah, è un film che parla di due donne migranti, quindi sono due storie personali, poi in realtà sono le storie di, direi, un'intera comunità di donne migranti, perché sono storie paradigmatiche, no? Cioè narrano di situazioni che le donne migranti vivono molto spesso, e poi però in realtà è un documentario che parla di temi che riguardano un po' tutti gli esseri umani, in particolare la loro sfera affettiva, per cui è un tema che parla di maternità, di ricerca dell'amore, di fuga dalla solitudine, di ricerca di un posto da chiamare casa. Oh, l'altra volta parlandone mi dicevi di vari sentimenti che vivono queste persone, dalla nostalgia allo spaesamento, e poi un punto molto interessante è quello legato all'integrazione, che avviene soprattutto attraverso la lingua, e anche però la distanza che il ruolo lavorativo che rivestono ha soprattutto da parte dei datori di lavoro, e legato anche a una sorta di diffidenza che loro nutrono verso il paese che in qualche modo le ospita. Sì. Quindi c'è questo doppio binario: da una parte l'integrazione, dall'altra però una sorta di distanza e diffidenza da una parte e dall'altra. Sì, è così. Guarda, ti dirò che adesso nelle proiezioni a Bologna sono previste due serate, una in cui ci sarà l'associazione che, diciamo, mette in contatto le aspiranti badanti e le famiglie italiane, e abbiamo invitato anche una psicologa che è la persona che si occupa normalmente di seguire queste persone in Italia, appunto proprio sotto questo aspetto, no? Cioè sul fatto che appunto sono persone che spesso hanno bisogno proprio di un supporto psicologico, perché questo loro lavoro, nonostante appunto sia un lavoro poi di contatto, non è un vero lavoro di contatto, e invece appunto ciò che invece loro, no, a cui più tengono è lontano, è molto lontano, ed è irraggiungibile per tanto tempo. E un'altra proiezione che faremo vedrà proprio l'incontro con le protagoniste, quindi Nadia e Sveta saranno in sala entrambe, probabilmente verrà anche la bimba, verrà anche la nonna, insomma verranno tutte, sarà un momento credo molto forte, loro sono contentissime, sarà credo strano perché sono persone che vivono nell'ombra, e quindi avranno i riflettori invece accesi. Io spero che queste situazioni saranno dei momenti anche proprio conoscitivi, sì, per gli italiani, mm-hmm, e poi appunto per loro saranno credo delle emozioni, però chissà. È un'idea. Maura, un altro aspetto che mi aveva molto incuriosito e ritengo sia molto interessante è questa attitudine ad unirsi tra loro e a creare una sorta, sì, di famiglie al femminile. Ecco, ci parli per esempio di questo aspetto? Ma sì, è proprio, guarda, mi è arrivato l'altro giorno un avviso di una conferenza sulle nuove famiglie italiane, quindi le famiglie di coppie eventualmente omosessuali o di persone separate. Io ho subito pensato, dovrebbero parlare anche di queste nuove famiglie italiane, che sono delle famiglie di donne, per cui ci sono spesso, io per esempio ho passato un Natale in cui appunto Nadia, Sveta e la bambina sono state insieme ed erano loro la famiglia in quel momento, e questo capita spesso tra di loro, sono dei nuclei da una parte molto allargati, sono gruppi di donne molto numerosi che vanno negli stessi luoghi, si incontrano, hanno proprio dei luoghi specifici, anche perché lavorano molto, hanno dei giorni precisi in cui sono libere e quindi tendono poi dopo invece a incontrarsi, darsi un appuntamento, credo proprio anche per finalmente avere qualcuno con cui avere una complicità, una comprensione, un'immediatezza linguistica. E poi anche più ristretti, no? Cioè di piccoli gruppi di amiche che diventano, secondo me, delle piccole famiglie all'estero. Sì. Fenomeno molto molto curioso e interessante, insomma. Sì, senti, sì. Maura, allora da oggi al Cinema Lumiere, sì, a Bologna, esatto. E poi che succederà? Per esempio, guarda, questa è una bella novità, nel senso che in realtà è una novità per la Cineteca stessa, no? Perché è la prima volta che la Cineteca di Bologna distribuisce. Quindi parte con questo progetto distributivo con De Sveta e con un altro film, God Save the Green. Quindi la proposta della Cineteca è una proposta intermedia tra diciamo, la distribuzione, quella tradizionale, classica, con una tenitura lunga, dei film mainstream con la pubblicità eccetera, e dall'altra parte però invece, no, la data unica, che spesso è un po' l'unica possibilità per i documentari in Italia. La proposta è quella invece di avere una tenitura media, o come qui a Bologna appunto, a partire da questa sera che avremo 6 serate una dietro l'altra, oppure magari varie serate però cadenzate, no? Cioè ogni lunedì di marzo, per dire. Sì. Quindi adesso ci muoviamo su Bologna, si sta parlando già con altre 3-4 città, e poi a seguire naturalmente la macchina inizia più lenta, però poi l'idea è quella, speriamo di trovare degli esercenti coraggiosi che abbiano voglia un po' di scommettere su questo film. La Cineteca crede molto in questa possibilità, anche perché come dire, intravede in Nadia Sveta un linguaggio anche molto simile a quello di finzione, quindi la possibilità di raggiungere un pubblico anche più abituato ad altre cose rispetto al documentario. Poi il principio di base di questa distribuzione sarà quello anche dell'organizzazione degli eventi, cioè vorremmo accompagnare il film sempre con degli eventi, prima o meglio ancora dopo il film, con delle persone o che afferiscono, diciamo, al mondo cinematografico, oppure a quello dei temi che attraversano il film, quindi in particolare l'immigrazione e il femminile, o le due cose congiuntamente, per cui appunto adesso a Bologna ci sarà una serata come quella di stasera in cui interverranno Sandro Mezzadra e Francesca Decimo, che si occupano di immigrazione, poi ci sarà una serata invece molto più al femminile, una più cinematografica. L'idea è quella di avere delle persone invitate che parlino del film e a partire del film dei temi, e anche a partire dalla loro esperienza, quindi ci rivolgiamo al mondo dell'associazionismo, dell'università, eccetera. Bene. Tra l'altro, Maura, esiste anche adesso la pagina Facebook del vostro, esatto, film, esatto, che sì, diceva sì, anche di questa chiacchierata che avremmo fatto oggi in radio. Sì. Maura, io ti abbraccio e aspetto tue notizie. Sì, guarda Federico, l'altra volta mi avevi chiesto se c'era un sito internet, ti avevo detto di no, invece c'è anche era quello. Era in costruzione, quindi adesso... esatto, ne approfitto per dire anche quello, che è proprio il titolo, www.nadiasveta.com. Benissimo. Quindi sia la fanpage che il sito, visitate. Bene, ti abbraccio Maura. Grazie mille. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Maura Del Pero, regista del documentario Nadia Sveta, dal Cinema Lumière a Bologna da oggi fino al 13 febbraio e poi si spera anche altrove. È con noi Marco Leopardi, regista del documentario Mohamed e il pescatore, che sarà presentato qui a Roma al Cineclub de Tour sabato 9. Giusto Marco, intanto benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Grazie a voi. Sì, sabato alle 21 e sarà anche proiettato comunque domani al Museo Pigorini alle 16, sempre a Roma. Sempre alla tua presenza, immagino. Sì, spero di sì. Bene. Sì. Allora, di cosa parla questa storia? È la storia di Mohamed, un ragazzo mauritano che 4-5 anni fa ha deciso di raggiungere l'Europa, ha preso come tanti un gommone, questo gommone è naufragato e sono morti tutti quanti gli occupanti del gommone, 47 persone. Lui è riuscito miracolosamente a resistere 6 giorni in mare, attaccato al paiolo di questo gommone, intercettando diverse barche, diverse navi, fino a quando una di queste, quella di Vito Cittadino, un pescatore di Mazara del Vallo, lo ha salvato. A questo punto Mohamed, come dire, vivrà in Italia un anno e mezzo, per poi trasferirsi, diciamo, oltre Alpe, dove adesso lavora e insomma ha un futuro decisamente più tranquillo e migliore. Marco, come sei venuto a conoscenza di questa storia? Come è avvenuto il contatto e come cosa ti ha raccontato? Insomma, che esperienza umana hai vissuto anche tu, che insomma hai seguito questa storia? Sì. Sì, in realtà questa storia non nasce da una mia iniziativa, ma da quella di Marta Zaccarone, una produttrice friulana, e di una giornalista, Ludovica Iona, insieme qualche anno fa cercavano una storia, diciamo, simbolo della migrazione, del dramma della migrazione, e si sono imbattuti nella storia di Mohamed. Ludovica ha cercato per diverso tempo di rintracciare sia Mohamed sia il pescatore Vito Cittadino, è riuscita a incontrarli e tutti e due manifestavano, insomma, il grosso desiderio di rincontrarsi, di rivedersi, e a questo punto mi hanno coinvolto in questa storia. Abbiamo deciso di raccontare questa storia riaccompagnando Mohamed a rincontrare Vito, e abbiamo convissuto del tempo a Mazara del Vallo, e quindi la storia racconta sicuramente questa amicizia, questo incontro, ma soprattutto Mohamed rievoca il dramma vissuto nel tentare di raggiungere l'Italia. Senti, la sua esperienza in Italia e poi la decisione di proseguire il suo viaggio e andare in Francia? Ma è una decisione dovuta esclusivamente a un fatto legato al lavoro. In Italia aveva avuto l'opportunità di fare anche un corso di formazione come aiuto cuoco, ma le opportunità di lavoro non riusciva a trovarle, mentre in Francia, forse probabilmente aiutato anche da parte della sua comunità che è lì, è riuscito a trovare un lavoro che gli garantisce uno stipendio decoroso. Senti, venendo a contatto con questa storia, immagino che hai vissuto anche un po' la realtà dei migranti in Sicilia, e volevo chiederti anche che qual è il tuo pensiero in proposito, la tua esperienza. Beh, sicuramente raccontare questa storia, anche perché Mohamed è sicuramente una storia simbolo, ma anche lui, insomma, è un ragazzo particolare che ha deciso in qualche modo di mettere così a disposizione di tutti questo racconto anche molto sofferto da parte sua. E che dire, come dire, io diciamo soffrivo la completa passività di fronte a immagini viste sul telegiornale, sì. dove questo dramma sembra, come dire, è a pochissimi metri da noi, ma la maggior parte di noi rimane indifferente. Ho pensato che riuscire a raccontare una storia da vicino, far conoscere un pochino più nell'intimità uno dei tanti migranti, poteva servire un pochino a scuotere questa sorta di così indifferenza collettiva. Stare vicino a Mohamed è una banalità, ma, come dire, è stata la conferma che Mohamed è esattamente come me. Mohamed ha lo stesso mio diritto di cercare un futuro migliore, e quindi, come dire, conoscendo queste persone se è già assurdo immaginare che queste persone debbano rischiare di morire per raggiungere l'Europa, conoscendole, come dire, si ha la certezza totale che questa cosa non debba accadere. Senti, sentendo anche gli autori di altri documentari sul tema, però l'impressione è che, insomma, anche rispetto a quanto ci raccontano, non c'è solo indifferenza, ma spesso anche tanti singoli e strutture che si occupano in maniera virtuosa di questo fenomeno della migrazione. Sì, io in questo lavoro non sono entrato, diciamo, nella specifica così normativa. C'è una parte del documentario abbastanza diciamo simbolica in questo senso. Mohamed cerca di telefonare a un ufficio per avere informazioni, per aggiornare i suoi documenti, e questa telefonata è paradossale. Dall'altra parte non riescono, eppure Mohamed parla un italiano sufficiente, non riescono a capirlo, gli danno infiniti numeri di telefono diversi che non portano a nulla. Abbiamo girato praticamente un'ora questo tentativo continuo di Mohamed, che cercava una risposta a una domanda probabilmente molto semplice. Questo forse, come dire, è la condizione dove molte persone si trovano, e Mohamed è una persona che parla italiano, quindi figuriamoci una persona che arriva all'improvviso e cerca di così un aiuto da qualsiasi parte. Certo. Quindi è molto disorientante. Questo per quanto riguarda l'accoglienza, senza poi dei centri di identificazione ed espulsione, insomma, sì, è un'esperienza terribile quella dei migranti che arrivano. Sì, forse, dimmi. Ma perdonami, una cosa, come dire, che emerge fortemente, che forse dimentichiamo anche facilmente, è che appunto lo stretto, il canale di Sicilia è una tomba, come dire, che accoglie migliaia di persone. Sì. E nel documentario c'è un pezzettino in cui Vito accenna al fatto che gli capita a lui e ad altri pescatori di imbattersi, di raccogliere resti umani, lui dice una caviglia, un teschio. In realtà la cosa è probabilmente molto molto più evidente e drammatica. Io ho raccolto testimonianze di pescatori ai quali capita di raccogliere reti di corpi, che vengono ovviamente tagliate perché non si può portare a terra così. Questa situazione può creare a loro, come dire, un fermo della pesca, situazioni poco gestibili. E sulle loro cartine, in questi punti dove raccolgono resti umani, loro mettono una X, mettono un segno di riconoscimento per evitare di passare un'altra volta in quel luogo. Quindi insomma, questo la dice lunga su quello che succede in quel tratto di mare. Senti Marco, allora chiudiamo ricordando questi due appuntamenti romani. Uno è al Cineclub de Tour sabato 9 febbraio, in cui sarai presente anche tu. L'altro, dicevi, al Museo Pigorini. Sì, domani alle 16 all'interno di una manifestazione organizzata dal museo sulle migrazioni. E per chiudere, anche qualche riferimento internet rispetto al tuo documentario. Sì, c'è una pagina Facebook intitolata appunto Mohamed il pescatore. Benissimo. Marco, è stato un piacere e spero di risentirti presto. Grazie a voi, grazie a voi. Un abbraccio. Ciao Marco. Un saluto. Ciao, ciao, ciao. Marco Leopardi, regista del documentario Mohamed e il pescatore. E con questo chiudiamo l'appuntamento di questa settimana con Visionari. Tutte le informazioni le trovate sul sito internet della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari. Trovate gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 7 febbraio, le nostre indicazioni, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo e poi gli altri appuntamenti della settimana in giro per l'Italia tra festival, rassegne e proiezioni, e in fondo alla pagina il link che rimanda alla puntata precedente e all'archivio del 2013-2012. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Abbiamo anche la pagina Facebook della trasmissione ed è tutto.